Componimento 53esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Spirto gentil, che quelle membra reggi, dentro alle qua, peregrinando alberga, un signor valoroso, accorto e saggio, poi che s'è giunto all'onorata verga, con la qual Roma i suoi erranti correggi e la richiami al suo antiquo viaggio. Io parlo a te, però ch'altrove un raggio non veggio di vertù, ch'al mondo è spenta, né trovo chi di malfar si vergogni. Che s'aspetti non so, né che s'agogni Italia, che suoi guai non par che senta. Vecchia, oziosa e lenta, dormirà sempre, e non fia chi la svegli. Le man l'avess'io avolto entro capegli. Non spero che giammai dal pigro sonno mova la testa per chiamar quon faccia sì gravemente oppressa e di tal soma, ma non senza destino alle tue braccia che scuoter forte e sollevar la ponno è or commesso il nostro capo Roma. Pon man in quella venerabil chioma sicuramente e nelle trecce sparte sì che la neghittosa esca dal fango. I che dì e notte del suo strazio piango, di mia speranza ho in te la maggior parte, che se il popol di Marte devesse al proprio onore alzar mai gli occhi, parmi pur ch'a tuoi dì la grazia tocchi. L'antiche mura ch'ancor teme ed ama e trema al mondo quando si rimembra del tempo andato e indietro si rivolve e i sassi dove fur chiuse le membra di ta che non saranno senza fama se l'universo pria non si dissolve e tutto quel ch'una ruina involve per te spera saldar ogni suo vizio. O grandi Scipioni, o fedel Bruto, quanto v'aggrada s'egli è ancor venuto, o romor laggiú del ben locato officio. Come cre che Fabrizio si faccia lieto udendo la novella, e dice, Roma mia sarà ancor bella, e se cosa di qua nel ciel sicura, l'anime che lassú son cittadine, ed hanno i corpi abbandonati in terra, del lungo odio civil ti pregan fine, per cui la gente ben non s'assecura onde il camin a lor tetti si serra, che fur già sí devoti ed ora in guerra quasi spelunca di ladron son fatti, tal ch'a buon solamente uscio si chiude, e tra gli altari e tra le statue ignude ogni impresa crudel par che se tratti. Deh quanto diversi atti! Né senza squille s'incomincia assalto che per Dio ringraziar fur poste in alto. Le donne lagrimose e l vulgo inerme de la tenera etate e i vecchi stanchi c'hanno sé in odio e la soverchia vita e i neri fraticelli e i bigi e i bianchi con l'altre schiere travagliate inferme gridan «O Signor nostro, aiuta, aiuta!» E la povera gente sbigottita ti scopre le sue piaghe a mille, canibale non ch'altri farian pio. E se ben guardi alla magion di Dio, ch'arde oggi tutta, assai poche faville, spegnendo fien tranquille, le voglie che si mostran sì infiammate, onde fien l'opre tue nel ciel laudate. Orsi, lupi, leoni, aquile e serpi ad una gran marmorea colonna fanno noia sovente ed a sé danno. Di costor piange quella gentil donna che t'ha chiamato a ciò che di lei sterpi le male piante che fiorir non sanno. Passato è già più che il millesimo anno che n lei mancar quell'anime leggiadre che locata l'avean là dove l'era. Ahi, nova gente, oltra misura altera, irreverente, a tanta et a tal madre. Tu marito, tu padre, ogni soccorso di tua man s'attende, che l maggior padre ad altr'opera intende. Rade volte adiven ch'a l'alte imprese fortuna ingiuriosa non contrasti, ch'a gli animosi fatti mal s'accorda. Ora sgombrando il passo, onde tu intrasti, famisi perdonar molt'altre offese, ch'almen qui da se stessa si discorda, però che quanto il mondo si ricorda, ad uom mortal non fu aperta la via per farsi come a te di fama eterno, che puoi drizzar, sì non falso discerno, in stato la più nobil monarchia. Quanta gloria ti fia dir gli altri laitar giovene e forte, questi in vecchiezza la scampò da morte. Sopra il monte Tarpeio canzon vedrai un cavalier ch'Italia tutta onora, pensoso più d'altrui che di se stesso. Digli, un che non ti vide ancor da presso, se non come per fama uom s'innamora, dice che Roma ognora, con gli occhi di dolor bagnati e molli, ti chier mercè da tutti sette i colli. Fine del componimento.